4 mattino. Bello che vi sorprendete per Mondragone. In agricoltura è sempre così, io ho lavorato 5 anni in agricoltura, guadagnavo 5,20 euro all'ora e sono operaio specializzato. Se il problema sono quelli presenti e tu ne fai entrare ancora, cosa hai risolto? Cosa hai risolto? Perlomeno blocchi gli ingressi, perlomeno ne hai meno da gestire, fai senza continuare a contestare. Signori giornalisti, è una lezione per voi questa qui. Un comico è stato capace di svelare la vera essenza del primo ministro. Una cozzaglia di retorica che approda mai a niente e che è lì soprattutto per fare proclami ai quali non segue nessuna azione concreta. E vabbè, queste le vostre opinioni, il giudizio dell'ascoltatore sul Presidente del Consiglio Conte, sull'imitazione. Abbiamo fatto sentire la voce di Maurizio Crozza che appunto imita Conte. Per quanto riguarda invece la questione dei migranti, Mondragone innanzitutto, Mondragone in realtà non lo scopriamo adesso, caro ascoltatore, anzi temi come quello ci siamo occupati spessissimo delle condizioni nelle quali si lavora in agricoltura, soprattutto in certe zone del paese che non sono necessariamente solo quelle del sud, prevalentemente al sud, ma non solo, lo sappiamo perfettamente, che ci sia un problema su quanto la grande distribuzione paga questi prodotti e quindi poi quanto viene pagato il lavoratore, non c'è il minimo dubbio, e infatti è una questione che andrebbe risolta alla radice, come ben chiarito più di una volta. La legge sul caporalato serve perché comunque un meccanismo repressivo più forte è importante, forse può essere utile anche la sanatoria, ma tutto questo non basta se non risolvi i problemi alla radice. Sulla questione dei migranti, va bene, non so quale sia il ragionamento dietro, non facciamoli entrare, non è questo il punto, lo ripeto un'altra volta, il tema è che ci sono almeno 600.000 persone irregolari sul nostro territorio. Allora bisogna trovare una soluzione, e una soluzione razionale, perché dire spellerli tutti non c'è, perché non è possibile, se non fai gli accordi con i paesi di provenienza non riesci a farlo. E quindi bisogna trovare una soluzione razionale, bisogna ragionarci sopra, perché sono degli invisibili, o quasi, come abbiamo visto a Mondragone, sono visibilissimi perché tutti sanno che sono là, tutti, così come a Foggia, nel famoso ghetto di Foggia, la provincia di Foggia, lo sanno tutti che sono lì, a Rosarno lo sanno tutti che sono lì. Alcuni sono regolari, altri sono irregolari. Fatto sta che sono in quella condizione. Allora, una soluzione a questa questione andrà trovata, perché sono dei buchi neri sul nostro territorio nei quali si ritrovano queste persone ammassate. E anche per rispetto di queste persone. E ovviamente dello Stato nel quale viviamo, che deve essere in grado di avere, insomma, di sapere che cosa succede, È la seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Sono le 7:22 minuti, è lunedì 29 giugno. Al microfono sempre Simone Spezia, della parte appunto dedicata alla rassegna stampa, con titoli variabili oggi. Non c'è una linea precisa presa dai giornali, perché se il quotidiano La Repubblica apre con cassa integrazione per tutto l'anno, con l'intesa tra PD e Movimento 5 Stelle, che cassa integrazione per tutto l'anno, un accordo che comprende anche la proroga del blocco dei licenziamenti. Il Corriere della Sera apre con il PD che avverte il governo, ossia una lettera di Nicola Zingaretti, che in realtà su questo tema aveva già scritto al Sole 24 Ore nei giorni scorsi, ma oggi torna a scrivere e prende una posizione abbastanza netta. Basta tergiversare sul MES, il meccanismo europeo di stabilità, il fondo salva stati, risorse mai viste per la sanità, dice Zingaretti. Il Giornale sceglie un titolo nel quale ci parla di meno contanti, più code, perché da mercoledì scende la soglia dei pagamenti in denaro contante, appunto, e nel frattempo c'è il caos, soprattutto ligure sulle strade. La Stampa sceglie invece il decreto semplificazioni, che si cambia, il decreto Libera Italia, così si chiamerà giovedì il Consiglio dei Ministri, e intanto fa sapere il Presidente del Consiglio, oggi arriva la svolta su Alitalia. Il Messaggero apre invece con una intervista alla Ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, che, ve lo ricordo, sarà nostra ospite alle 8:20, sarà con me, con Maria Latella, appunto a parlare delle linee guida per settembre e a rispondere alle nostre domande. Scuola, ingressi per fasce d'età è il titolo. La Ministra Azzolina, alla ripresa gli alunni avranno nuovi banchi singoli, più insegnanti e orari sfalsati, scrive il Messaggero citando l'intervista appunto a Lucia Azzolina. Il Sole 24 Ore apre con tutti i dettagli, e se li volete sapere li trovate qua, alle pagine 2 e 3, bonus, contanti, famiglia e auto, tutte le novità dal 1 luglio, alle 10 svolte di metà anno, le spese agevolate al 110%, gli assegni per il nucleo, il bonus vacanze, le flotte aziendali e via dicendo. E in taglio centrale, niente ferie per 6 italiani su 10, un sondaggio del Sole 24 Ore, ne parleremo tra poco con Paolo Mieli. Il Fatto Quotidiano sceglie i vitalizi, adesso ci provano pregiudicati e indigenti, nella crepa del Senato si infilano anche Formigoni, De Lorenzo, Cito, eccetera, e quelli che piangono miseria, scrive il Fatto Quotidiano. La Verità, ecco chi vuole svendere l'Italia, qua l'apertura è sul fondo salva stati, Corriere rilancia la campagna suicida a favore del MES, Zingaretti corre in soccorso. Infine, cosa abbiamo? Libero, se non trovi la babysitter danno 1200 euro al nonno, per buttare via altro denaro il governo si mette il reddito da nipotino e appunto la possibilità di utilizzare il fondo, i fondi per le babysitter per darli ai nonni. Infine la Gazzetta dello Sport, il titolo è Re Big Milan, prima vittoria con una grande, Pioli da Europa e la Roma crolla, e poi Ribaltinter è il titolo principale, Conte se la vede brutta, rimonta vincente nel finale. Da cosa iniziare oggi? Devo dirvi che mi ha colpito molto questo pezzo, che è un pezzo, una componente di tutta la discussione che si sta facendo sul razzismo, aperta ovviamente dall'omicidio di George Floyd negli Stati Uniti, e che però trova spazio soprattutto in India. Siamo a pagina 16 della Stampa, con lo stop alle creme sbiancanti, è pagina 16. Unilever contro il razzismo dopo la protesta dell'India, a scrivere è Carlo Pizzati da Chennai. Per decenni, scrive, la TV indiana ha trasmesso pubblicità televisiva il cui messaggio chiave era lampante: se sei una donna dalla pelle chiara, troverai marito e avrai successo. Se invece un po' scura, farai la sguattera. In India la gradazione del colore della pelle è equivalente all'appartenenza di casta. Più scuro il colore, più bassa la casta. E la pubblicità rappresenta smaccatamente questa idea. Chuck, una danzatrice, viene eliminata dal coreografo, l'amica le consiglia una crema sbiancante, lei la usa rischiarandosi giorno per giorno, viene richiamata, ha successo. Chuck, una cameriera che porta i pazzi sul set, usa la crema sbiancante e diventa subito una modella stupenda tra click e sorrisi smaglianti. E questi sono i messaggi che passano appunto le pubblicità delle creme sbiancanti in India. Così la Johnson & Johnson ha smesso di distribuire le creme sbiancanti in India, mentre L'Oreal ha annunciato che rimuoverà termini come sbiancamento dai prodotti, e la Unilever eliminerà la parola bianca dalla crema bianca e bella Fair and Lovely. Gli slogan per vendere questi prodotti del resto non lasciavano dubbi, vi sbianca completamente, utilizzato ampiamente, creme utilizzate ampiamente da Bollywood. Dunque gli schiarenti in Asia vengono ritirati dal mercato, la celebre serie, poi la stampa porta una serie di altri esempi, no? La celebre serie TV I Simpson non userà più attori bianchi per prestare la voce ai personaggi neri, e in più c'è in parte un boicottaggio, in alcuni casi un boicottaggio di Facebook da parte di alcune aziende. E questa è la storia che ci racconta la stampa dall'India, una componente, no, di tutto quello che sta circolando intorno al razzismo. Prima di andare alla pausa e poi andare da Paolo Mieli, un paio di storie dall'Italia invece. La prima è sempre dalla stampa, la pesco, siamo a pagina 12, oggi c'è un sacco di cose interessanti a dir la verità, la racconta Riccardo Arena da Palermo. Palermo, dove cosa succede? Nel cimitero principale della città ci sono 480 bare in attesa di tumulazione, bloccate, letteralmente bloccate. Perché? Perché il direttore se ne andò alla chetichella ai primi di febbraio, prima del lockdown, e dopo aver ricevuto un avviso di garanzia dicendo che quello del cimitero dei Rotoli, che è il cimitero principale di Palermo, è un brutto ambiente. Ha lasciato il camposanto palermitano per le dimissioni, per l'inevitabile. Poi Cosimo Elio De Roberto ha lasciato il camposanto palermitano per le dimissioni e per l'inevitabile rimozione di un dirigente accusato di corruzione con altre 9 persone, e non è stato sostituito. Nella situazione è migliorata. C'erano circa 300 bare in deposito, ora ce ne sono 480 che giacciono accatastate un po' dappertutto. Dove e come capita? Racconta Riccardo Arena che per smaltire queste sepolture ci vorranno 10 settimane, il che vuol dire sostanzialmente 2 mesi. Ma nel frattempo la gente naturalmente a Palermo continua a morire, e quindi evidentemente questo accumulo di bare continua ad esserci per tutto un impiccio che ha a che fare con ovviamente la burocrazia e le inchieste giudiziarie. Bella la storia raccontata da Concita Sannino sulla Repubblica, pagina 21, ed è la storia di Fausto Bresciano, 46 anni, è uno chef di origini lucane che viveva in Germania e che è stato praticamente salvato era di fatto l'ospedale nel quale era ricoverato in Germania era pronto a staccargli il respiratore, ma lui non aveva mai espresso la volontà di essere che gli fosse tolto il supporto vitale. È stato salvato di fatto dalla sorella Maria Grazia, neuropsichiatra ed ex primario che vive a Portici nel Napoletano, e all'intervento tenace del Ministero degli Esteri. È stata una corsa contro il tempo per salvarlo. Era stata decisa dall'ospedale nel quale era ricoverato in Germania dopo un malore l'eutanasia passiva, la sospensione di nutrizione e idratazione artificiale. Una decisione assunta, racconta ora la famiglia, senza avere uno straccio di prova della volontà di quel paziente. Sarebbe stata la moglie e l'interpretazione delle parole della moglie a far scegliere, a far andare i medici in questa direzione. Ricorda che a marzo, quando era intubato, la tutrice, perché in questo caso c'è un tutore che deve intervenire, chiese se Fausto avesse un parere sulla possibilità di sopravvivere attaccato ad una macchina. Lei ricorda che forse lui non era d'accordo. Possibile che sia bastata quella frase? Fatto sta che Fausto ha rischiato appunto di essere staccato dal respiratore e dal supporto vitale. Adesso invece è tornata in Italia, sono andati in tribunale, hanno contestato la raccolta di quelle dichiarazioni, dall'ospedale hanno detto è deciso, è intervenuto il Ministero degli Esteri. Ebbene, adesso appunto Fausto Basciano, 46 anni, chef di origini lucane, è tornato, è stato riportato in Italia e a quanto pare stiamo assistendo ad una fase di recupero. Una pausa. Caro Paolo Mieli, buongiorno. Tu andrai buongiorno. In vacanza? Ma io ho letto il Sole 24 Ore e ho capito che no, non si andrà in vacanza, perché c'è un sondaggio di Antonio Noto che dice che solo pochissimi italiani, quanti sono? 4 su 10. Niente ferie per 6 italiani su 10, figurati se sono fra i 4 su 10. Il 58% non trascorrerà nemmeno una notte fuori casa per carenza di denaro, quindi non è paura di Covid, ma carenza di denaro. il 28%, finirà in agosto i fondi personali, mutui e affitti 30%. Oggi è il giorno in cui al mondo ci sono 10 milioni di contagiati e i morti sono 500.000, insomma lo teniamo non sì. per macabra contabilità, ma perché quando si fa cifra tonda, bene, sì. così capiamo qual è la progressione, lo faremo sempre. E la dimensione, da tenere presente in questo sondaggio a pagina 8 sul Sole 24 Ore, ci sono anche altri numeri interessanti, il fatto che per esempio più del 50% degli italiani dica, circa il 50% degli italiani dica che rispetto a prima dell'epidemia le sue entrate mensili sono diminuite, che in seguito alla crisi economica un terzo degli italiani dice che ha difficoltà a fare acquisti non alimentari o a sostenere le spese mediche. E insomma, questi sono i segnali che riceviamo, quantomeno da questo sondaggio che trovate appunto sul Sole 24 Ore. Punto Covid, caro Paolo, che ci porta diretti a come finanziare il sistema sanitario e quindi al MES, che è un po' il grande tema di discussione di queste ore all'interno della maggioranza e che oggi si arricchisce di una nuova lettera di Zingaretti al Corriere della Sera. In cui sollecita a fare la richiesta, elenca dei punti che conosciamo a memoria per migliorare gli ospedali, per poter destinare più fondi alla ricerca. È stucchevole questa vicenda del MES, perché da quello che ho capito io, e me ne prendo io la responsabilità, noi il MES lo chiederemo, solo che i 5 Stelle, per motivi di diplomazia interna, vogliono rinviare il più possibile questo amaro calcio a settembre. E Zingaretti lo vorrebbe accelerare, ma non pone nessuna condizione. Io credo di avere già letto altre lettere, tra cui una sul Sole 24 Ore dello stesso tenore, no? Non è che è il primo giorno oggi che chiede il ricorso al MES. Ora, si può avere qualsiasi opinione sul MES, chi è contrario, chi è favorevole. Io personalmente sono favorevole, molti sono favorevoli, Berlusconi è favorevolissimo, perché vedo che il giornale oggi anche sul giornale sollecita la pagina 2 o 3, ma non so, a un certo punto bisognerà, non è che si può continuare a mandare lettere e inondare i giornali di lettere, no, lo dico a Zingaretti, oppone un out al governo, ai 5 Stelle, oppure così no, leggeremo piacevolmente delle lettere l'altro giorno sul Sole 24 Ore, oggi sul Corriere, domani su Repubblica, dopodomani sulla Stampa, e sono lettere bellissime, poi le conserveremo tutte, ne faremo un libro. Sì. Faremo un libro che avrà un PD che vuole accelerare, perché considera il sì al MES anche un elemento strategico importante per portare avanti l'altra trattativa, no? Quella sul cosiddetto recovery fund. Quindi. Anche perché Angela Merkel, lo dobbiamo ricordare, l'altro giorno in intervista a tutti i principali quotidiani europei, su Deutsche Zeitung per primo, ma qua in Italia ha pubblicato la Stampa, e ha detto: ragazzi, chiedete un po' il MES, perché noi abbiamo messo a disposizione molti strumenti, ma voi non potete fare la scelta delle ciliegie, questo sì, questo no, insomma se dite che siete un paese con delle difficoltà, e devo dire Conte le ha risposto in un modo molto sgarbato, molto scortese, cioè, qua in Italia me ne occupo io, cioè, Conte in Italia è premiato dai sondaggi, ancora oggi il Diamanti dice che è un dio in terra, su Repubblica, però secondo me io sommessamente gli suggerirei di andarci cauto quando si muove sul mercato internazionale, sullo scenario internazionale, soprattutto con Angela Merkel, che sta facendo l'impossibile per far quadrare le decisioni fra paesi frugali, paesi un po' più rigidi e paesi un po' più spendaccioni. Germania, tra l'altro, che lo ricordiamo, questa settimana assume la presidenza del semestre europeo, come gli ascoltatori sanno, ogni sei mesi cambia il presidente di turno, che dà un po' un indirizzo, un ordine dei lavori all'Europa, e la presidenza di turno del prossimo semestre è tedesca, e quindi ancora più, già importante di suo, lo è ancora di più istituzionalmente prima in questo momento. Prima che tu vada al traffico, io ti devo dire prima abbiamo ancora ancora tempo per il tè prima del traffico. Io dico che il fatto, visto che siamo in tema di virus, è andato a vedere quanto sono stati in televisione i virologi e ha vinto, indovina chi, vediamo, Massimo Galli. Vedi, Massimo il professor Galli ha fatto Galli, in totale 14 ore e 27 minuti in televisione. Secondo Fabrizio Pregliasco, 12 ore e 40 minuti. Terzo Gianni Rizza, 9 ore e 46 minuti. Quarto Roberto Cauda, quinto Walter Ciade, ti do più i tempi, sempre il Giro d'Italia, e Burioni dice Sfotte, accusato di essere il più presenzialista di tutti, in realtà si classifica solamente decimo. E quindi Paolo, prima di chiudere, hai visto sui giornali c'è una grande discussione su questo bonus babysitter che può andare anche ai nonni, ai nonni. No? Questi 1200 euro, e vedo che ci si divide molto, ha diviso. Questo è il secondo motivo di divisione nella destra dopo il MES, perché sai, il MES divide perché Forza Italia è favorevole, Lega e Fratelli d'Italia no. Poi c'è il bonus dei nonni, perché ho visto che il giornale letteralmente esulta, il giornale, mentre invece Libero lo prende, perché, io, se non trovi la perché per Stefano fanno... Zecchi, perché per Stefano Zecchi sul giornale è un premio ai pilastri della famiglia, così la mette, mentre invece appunto Libero senti come dice Libero, per buttare via denaro il governo si inventa il reddito da nipotino. Le famiglie potranno sostenere che durante la pandemia erano gli anziani a curare i bimbi e passare all'incasso. Il tono non è come quello di Zecchi, da una parte il pilastro della famiglia, dall'altra si butta il tono. Io comunque, insomma, mi fanno anche a me sorridere tutte queste forme. Il bonus Bonaparte, il bonus vacanza saranno delle cose per far ripartire l'economia, però il bonus del nonno, il bonus nonni, non male. Tu lo prenderai il bonus nonno? Ma figurati, ingannando un po' puoi prendere anche il bonus nonno, dai. Ma figurati. Traffico. Facciamo una puntata all'estero, perché ci sono molte notizie oggi, soprattutto che riguardano le nostre zone, l'Europa, e inizierei dalla Francia con, caro Paolo, queste... Il flop di Macron, questo dicono tutti i giornali, cioè quasi il partito di En Marche, che appena 4 anni fa sembrava mandare in solucro tutti gli osservatori europei, forse nel mondo, niente, si dimostra un partitino che non è in grado di sopravvivere. Marosi, mentre osserva, c'è un'intervista interessante a Jean-Yves Camus, che è un politologo francese, che dice che i populisti perdono terreno ovunque. In effetti c'è un piccolo smottamento dei partiti populisti anche in Polonia, e che tornano a galla le contrapposizioni tradizionali, quelle fra destra e sinistra. Bene o male, per esempio in Francia il partito gollista resiste, la Hidalgo, che è una sindaca socialista a Parigi, resiste, però nel naufragio di Macron, naufragio è una parola eccessiva, perché non stiamo a naufragio, bisogna dire, me lo dico da me, quindi bisogna dire che il primo ministro Philippe Alle Havre ha avuto un discreto successo. Philippe è un personaggio che in Francia è molto noto anche per un singolare fenomeno. È entrato nella crisi del Covid con una barba corvina, un bellissimo uomo alto con una barba corvina, è uscito con la barba bianca. È un po' come Cossiga ai tempi del sequestro Moro, che uscì stravolto con i capelli, il colore dei capelli, e lui evidentemente questa cosa l'ha molto colpito. Invece in Polonia prima della Polonia un paio di segnalazioni, se mi permetti, Paolo. Vi suggerisco su questo pagina 12 del Corriere, che del Corriere della Sera, che è molto chiara anche in alcuni dei luoghi chiave nei quali si è votato, o simbolici, no? L'ex compagno di Le Pen che spugna Perpignane, quindi il Rassemblement National di Marine Le Pen, che ottiene un sindaco al quale puntava, una carica alla quale puntava, e poi Bordeaux, che dopo 73 anni perde la destra, e si segnala anche una certa avanzata dei Verdi, cosa che nel resto d'Europa avevamo già visto, Paolo. Sì, però in Francia è particolarmente pronunciata, hai ragione tu a citarla, e ti dicevo, passando alla Polonia, che Duda, che è l'Orban polacco, per dirla in modo semplificato, non ce l'ha fatta a vincere il primo turno, ha il 40%, se la dovrà però vedere un secondo turno di ballottaggio con Tsarkovsky, che è invece è un candidato europeista, e questi tutti dicono che è un buon segno. Nel frattempo, visto che stiamo parlando delle elezioni, in Inghilterra hanno fatto un sondaggio, un primo sondaggio, che Starmer, che è il nuovo leader del laburisti, ha preso il posto di Jeremy Corbyn, batte Johnson, che se la passa male, in difficoltà, così come se la passa male, dai, faccio un viaggio nel mondo, se la passa male Trump, Donald Trump, che è finito sotto attacco dei Rolling Stones, perché aveva preso un brano. Non sono i primi, però fanno più rumore, perché già Tom Petty aveva detto piantala di usare, anzi non la famiglia di Tom Petty, aveva detto piantala di usare le sue canzoni nei tuoi comizi. Adesso però gli Stones, insomma, il peso è diverso, E certo, l'articolo di Roberto Fabri sul Giornale a pagina 12, insomma, il giornale, pur non essendo un giornale antipatizzante nei confronti di Trump, lo regista con un cazzottone, un bel pugno, la band inglese minaccia la causa per l'uso del brano ai comizi, e dice il giornale, il tycoon, cioè Trump, in difficoltà. Sì, decisamente. A proposito di elezioni, Paolo, ti volevo sollecitare su una questione italiana, in realtà, che abbiamo lasciato da parte prima, e che troviamo soprattutto sui giornali di destra o vicini al centrodestra, ed è la vicenda di Susanna Ceccardi, la candidata ormai ufficiale del centrodestra alle elezioni in Toscana. Sulla quale si è... Guarda, voglio essere chiaro, piena solidarietà alla Ceccardi, che, nei cui confronti ci si consente di usare dei toni come la Bergonzoni ai tempi, in Emilia. Sei una schiava, sei laccio, sei un cane. Sì. Cosa è successo? Lo raccontiamo agli ascoltatori. Eugenio Giani, che è il candidato del Partito Democratico, in un'intervista al Corriere Fiorentino dice della Ceccardi che è al guinzaglio di Matteo Salvini. È ovvio che lo dice metaforicamente, però insomma, noi non possiamo mostrare sensibilità nei confronti delle donne, o delle offese alle donne, a corrente alternate, o sempre o mai. Certo. E siccome noi lo facciamo sempre in genere, e allora diciamolo anche questa volta, smettetela, non usate frasi sessiste né che possano alludere al sesso. Lui risponderà: cane al guinzaglio non allude al sesso, però noi sappiamo che allude invece al sesso. A proposito di centrodestra, c'è oggi il Messaggero ci regala una notizia. Cavolo, hai ragione, ma noi avremmo dovuto aprire su questo, se è vera, perché sai, Berlusconi, la notizia è che si trasferisce e lascia Palazzo Grazioli per andare in una villa sull'Appia. Ma se è vero, io ho fatto un salto sulla sedia, dico se è vero perché c'è la cosa della villa in Sardegna, che sono anni che annuncia, che la cambia, che vende, che se ne va e poi non se ne va mai. Ma fosse vera, è un cambiamento nella geografia della politica romana italiana enorme. Perché l'Appia, dimmi quello che vuoi, è un buon ritiro, un modo per andarsene in collina, un po' come andare in collina, no? Mi trasferisco in collina, la mia carriera è finita. Era un palazzo nel centro di Roma, sì, lui dirà che lo fa per motivi economici, ma ha un effetto simbolico, il palazzo che si vede in decine di film, con le macchine sotto, i contestatori. Certo. Che ha ospitato Putin, capi di Stato e di Governo. Una parte delle famose cene eleganti, insomma, quindi La parte romana, quella meno birbante, meno viva. Guarda, è una vera notizia. Se hai tempo, è una mezz'oretta, ricominciamo la rassegna stampa e la ricominciamo. Facciamo tutta su Palazzo Grazia. Dicono tempo? Paolo, no, non abbiamo tempo, però per chi ha memoria di quel che ci siamo detti in passato in rassegna stampa, un ascoltatore propone, dice, dato che il dottor Mieli non va in vacanza, puoi invitarlo in una delle tue ville a Santorini, le famose ville a Santorini di Spezia. Ormai notissime le mie ville, le mie grandi proprietà immobiliari. Caro Paolo, ci risentiamo mercoledì. Ciao, buona settimana. GR24, ci ritroviamo tra poco con Maria Latella e i nostri ospiti, la ministra Lucia Azzolina, la ministra dell'istruzione. Poi, cari automobilisti che siete rimasti incastrati sulle autostrade liguri, avremo Giovanni Toti. A tra poco.